Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Il Palazzo Braschi di Roma ospita per un po' di tempo una bellissima mostra dedicata a un'artista che è diventata celebre, ma per un fatto molto triste. Sto parlando di Artemisia Gentileschi, una donna pittrice, una delle grandi donne pittrici attive nella prima metà del Seicento. Perché dico triste? Perché questo personaggio è diventata celebre soprattutto nel Novecento, perché furono ritrovati negli archivi i documenti di un processo che la coinvolse, un processo terribile. Artemisia era stata sostanzialmente violentata da Agostino Tassi, che era un allievo di suo padre. Artemisia era figlia di un pittore, Orazio Gentileschi, e il Gentileschi aveva vari allievi in bottega, tra cui questo Agostino Tassi, il quale violentò la giovane ragazzina con la promessa di sposarla. Peccato che era già sposato, quindi era una promessa falsa. E questa vicenda portò a un processo che è rimasto scandaloso, naturalmente ancora oggi lo si cita come esempio di scandalo. Cos'era successo? Questa ragazza fu costretta, naturalmente, a raccontare tutte le sue vicende in tribunale, ma siccome avevano due versioni dei fatti, Tassi diceva che lei era consenziente, lei invece diceva di essere stata violentata, il giudice decise di usare la tortura, solo che torturò solo la ragazza, non il Tassi, e questa donna resistette alle torture con grande forza, gli schiacciarono le dita e lei resistette, continuò a dire la sua verità e condannarono il Tassi. Questa vicenda però ha messo in oscuro un aspetto molto importante, che Artemisia Gentileschi è una grandissima pittrice e noi dobbiamo andare a vedere questa mostra, naturalmente con davanti questa immagine, perché le scelte che lei fa, le teste mozzate all'interno dei suoi quadri, gli uomini feriti all'interno dei suoi quadri, non sono altro che il riflesso di questa terribile vicenda. Però era anche un artista di grandissimo livello, in grado di gareggiare con tutti i grandi pittori del suo tempo, nella città di Roma, nella città di Firenze, nella città di Venezia e nella città di Napoli, dove lei è vissuta e operata per molti anni.